Adesso Albertine, lasciata nuovamente libera, aveva ripreso il volo. Degli uomini, delle donne, la seguivano. Viveva dentro di me. Mi rendevo conto che questo prolungamento del mio grande amore per Albertine era come l'ombra del sentimento che avevo avuto per lei, ne riproduceva le diverse fasi e obbediva alle stesse leggi della realtà sentimentale che esso rifletteva al di là della morte. Sentivo infatti che se fra i miei pensieri per Albertine potevo mettere qualche intervallo, mettendone troppi, non l'avrei più amata. Una frattura siffatta me l'avrebbe resa indifferente, come era per me adesso la nonna. Troppo tempo passato senza pensare a lei avrebbe rotto nel mio ricordo la continuità, che è il principio stesso della vita, e che peraltro si può riafferrare dopo un certo intervallo di tempo. Non era andata così con il mio amore per Albertine quando lei era viva, amore che aveva potuto riannodarsi dopo tanto tempo che avevo smesso di pensare a lei. Ebbene, il mio ricordo avrebbe obbedito alle stesse leggi. Non avrebbe potuto sopportare intervalli più lunghi, dal momento che, come un'aurora boreale, non faceva che riflettere dopo la morte di Albertine il sentimento che avevo avuto per lei, era come l'ombra del mio amore. Il mio io attuale non amava più Albertine. Quell'io che l'aveva amata era morto. Ma dentro di me era depositata la parola «Ecmoville», parte di quell'io che si metteva a piangere per cose di cui abitualmente non soffrivo più, così come degli esemplari depositati presso la Biblioteca Nazionale consentono di conoscere un'opera che sarebbe andata perduta, come quei dischi incisi da un grande artista e sepolti nella cantina dell'Opéra, che quando il virtuoso è morto si rimettono a cantare con la voce che credevamo spenta per sempre. Proprio come l'avvenire, il passato lo si assapora poco a poco, e non tutto insieme. Del resto il mio dolore assumeva tante forme che in qualche caso non lo riconoscevo più. Avrei voluto avere un grande amore. Pensavo di cercare una persona che vivesse accanto a me e questo mi sembrava il segno che non amavo più Albertine, mentre era il segno che l'amavo sempre. Il bisogno di provare un grande amore, infatti, proprio come il desiderio di baciare le grosse guance di Albertine, non era che una parte del mio rimpianto. Solo quando l'avessi dimenticata avrei potuto trovare più saggio, più felice, vivere senza amore. Così il mio rimpianto di Albertine, facendo nascere in me il bisogno d'una sorella, lo rendeva perciò stesso inappagabile. E a mano che il rimpianto di Albertine si fosse affievolito, sarebbe diventato meno imperioso il bisogno di una sorella, che non era che una forma inconscia di tale rimpianto. Questi due residui del mio amore non tennero peraltro nel loro decrescere un passo ugualmente rapido. C'erano ore in cui ero deciso a sposarmi, tanto profonda risultava l'eclisse subita dal primo, mentre il secondo, al contrario, conservava una grande forza. E poi, in compenso, svaniti i miei ricordi gelosi, mi riassaliva a volte il cuore una tenerezza improvvisa per Albertine, e pensando ai miei amori per altre donne mi dicevo allora che lei li avrebbe capiti, condivisi, ed era come se il suo vizio diventasse una causa d'amore. A volte la mia gelosia rinasceva in momenti nei quali non mi ricordavo più di Albertine, benché fosse di lei che ero allora geloso. Credevo d'esserlo di André, essendo venuto a sapere in quel momento d'una sua avventura. Ma André non era per me che un prestanome, una falsa deviazione, una presa di corrente che mi collegava indirettamente ad Albertine. È così che in sogno si dà un altro volto, un altro nome a una persona sulla cui identità profonda non ci si può tuttavia ingannare. Insomma, malgrado i flussi e i riflussi che in questi casi particolari contraddicevano la legge generale, i sentimenti che Albertine mi aveva lasciati avrebbero fatto più fatica a morire che non il ricordo della loro causa prima. Non solo i sentimenti, ma le sensazioni. Diverso in questo da Swann, che quando aveva cominciato a non amare più Odette non aveva neanche più ricreato dentro di sé la sensazione del suo amore, io mi sentivo ancora rivivere un passato che non era più che la storia d'un altro. In qualche modo bipartito, il mio io, mentre la sua estremità superiore s'era già raffreddata e indurita, bruciava ancora alla base ogni volta che una scintilla tornava a farvi passare la vecchia corrente, persino quando la mia mente aveva smesso da parecchio tempo di contemplare Albertine. E poiché nessuna immagine di lei accompagnava le palpitazioni crudeli suscitatevi, le lacrime fatte salire ai miei occhi da un vento freddo che soffiava come a Balbec sui meli già in fiore, arrivavo a chiedermi se la rinascita del mio dolore non derivasse da cause puramente patologiche, e se ciò che prendevo per la reviviscenza d'un ricordo e l'ultima fase d'un amore non fosse piuttosto l'inizio d'una malattia di cuore. In certe affezioni ci sono accidenti secondari che il malato è facilmente portato a confondere con la malattia vera e propria. Quando cessano, il malato si stupisce d'esser meno lontano dalla guarigione di quanto aveva creduto. Così era stato della sofferenza provocata, della complicazione indotta, dalle lettere di Aimé riguardanti lo stabilimento di docce e le lavandaie. Ma un medico dell'anima che m'avesse visitato avrebbe trovato che, quanto al resto, il mio dolore in sé per sé andava meglio. Certo, dal momento che ero un uomo, uno di quegli esseri anfibi immersi simultaneamente nel passato e nella realtà attuale, dentro di me c'era sempre una contraddizione fra il ricordo vivo di Albertine e la conoscenza che avevo della sua morte. Ma questa contraddizione era in qualche modo l'inverso di ciò che era stato una volta. L'idea che Albertine era morta, idea che nei primi tempi andava a scontrarsi in me con l'idea che fosse viva con tanta veemenza da costringermi a fuggire di fronte ad essa come i bambini al sopraggiungere dell'onda, l'idea della sua morte aveva finito col conquistare in me, a causa appunto di quegli attacchi incessanti, il posto occupato sino a poco tempo prima dall'idea della sua vita. Senza che me ne rendessi conto, adesso era l'idea della morte di Albertine, non più il ricordo presente della sua vita, a costituire per la maggior parte il fondo delle mie inconsce fantasticherie, cosicché, se le interrompevo di colpo per riflettere su me stesso, a provocarmi stupore non era più come i primi giorni che Albertine, così viva in me, potesse non esistere più sulla terra, ma che Albertine, che non esisteva più sulla terra, che era morta, fosse rimasta tanto viva in me. Costruito dalla contiguità dei ricordi che si susseguono l'un l'altro, il nero tunnel sotto il quale il mio pensiero rimuginava se stesso da troppo tempo per rendersi conto di dove si trovava, era bruscamente interrotto da un intervallo di sole che cullava in lontananza un universo sorridente e azzurro dove Albertine non era più che un ricordo indifferente e pieno d'incanto. Era lei, mi chiedevo, quella vera? O tale era invece l'essere che nell'oscurità in cui da tanto mi trascinavo mi sembrava la sola realtà? Il personaggio che ero stato ancora così poco tempo prima e che viveva soltanto nella perpetua attesa del momento in cui Albertine sarebbe venuta a dargli il bacio della buonanotte, una sorta di moltiplicazione di me stesso, me lo faceva apparire quel personaggio come se non fosse più che una debola parte ormai, quasi spoglia di me, e come un fiore che si schiude. Provavo la ringiovanente freschezza di una sfogliatura. Queste brevi illuminazioni non facevano forse del resto che rendermi più consapevole del mio amore per Albertine, come succede con tutte le idee troppo costanti che hanno bisogno di un'opposizione per affermarsi. Quelli che hanno vissuto durante la guerra del 1870 dicono, per esempio, che l'idea della guerra aveva finito col sembrar loro naturale non perché non pensassero abbastanza alla guerra, ma perché ci pensavano sempre. E per capire quanto la guerra sia un fatto strano e irrilevante, bisogna che qualcosa, strappandoli a quell'ossessione permanente, facesse loro dimenticare per un istante che la guerra regnava ed essi si ritrovassero così simili a quelli che erano quando c'era la pace, fino a che, di colpo, su quel bianco momentaneo si staccava finalmente distinta la realtà mostruosa che da molto tempo, non vedendo altro, avevano smesso di vedere. Se almeno i vari ricordi di Albertine si fossero ritirati in me non a scaglioni, ma simultaneamente, uniformemente, frontalmente, su tutta la linea della mia memoria, così che i ricordi dei suoi tradimenti si allontanassero assieme a quelli della sua dolcezza, l'oblio m'avrebbe portato un po' di pace. Non era così. Come su una spiaggia dove la marea scende in modo irregolare, il morso di questo o quel sospetto mi assaliva quando già l'immagine della sua dolce presenza si era ritirata troppo lontano da me per potermi apportare il suo rimedio. Avevo sofferto dei tradimenti perché, per lontani che fossero gli anni in cui si erano consumati, per me essi non erano vecchi, ma ne soffrii di meno quando lo divennero, cioè quando me li rappresentai meno vivacemente, perché l'allontanarsi di una cosa è più proporzionale alla potenza visiva della memoria da cui è osservata che non alla distanza reale dei giorni trascorsi, così come il ricordo d'un sogno dell'ultima notte può sembrarci più lontano, nella sua imprecisione, nel suo svanire, di un avvenimento vecchio di diversi anni. Ma sebbene l'idea della morte di Albertine facesse in me dei progressi, il riflusso della sensazione che fosse viva, pur non arrestandoli, li ostacolava e impediva che fossero regolari. E mi rendo ora conto che durante quel periodo, probabilmente per l'affondare nell'oblio delle ore in cui Albertine era stata in clausura a casa mia e che, a forza di distogliermi dalla sofferenza per colpe che mi sembravano quasi indifferenti perché sapevo che non poteva commetterle, erano diventate come altrettante prove di innocenza, provai il martirio di vivere in modo abituale con un'idea non meno nuova di quella della morte di Albertine. Fino a quel momento ero sempre partito dall'idea che fosse viva. Un'idea che avrei creduto non meno impossibile da sopportare e che a poco, senza che me ne rendessi conto, andava a formare il fondo della mia coscienza, sostituendosi all'idea che Albertine fosse innocente, l'idea che era colpevole. Quando credevo di dubitare di lei, invece credevo in lei. Allo stesso modo presi come punto di partenza delle altre mie idee la certezza, spesso smentita come prima l'idea opposta, della sua colpevolezza, pur immaginando di dubitare ancora. Dovetti soffrire molto durante quel periodo, ma mi rendo conto che era necessario che questo avvenisse. Non si guarisce da una sofferenza se non a condizione di provarla in pieno. Proteggendo Albertine da ogni contatto, forgiandomi l'illusione della sua innocenza, esattamente come più tardi, prendendo a base dai miei ragionamenti il pensiero che fosse viva, non facevo che ritardare l'ora della guarigione, giacché ritardavo le lunghe ore che dovevano passare, le sofferenze che erano necessarie. Quando avessi agito su questa idea della colpevolezza di Albertine, l'abitudine lo avrebbe fatto seguendo le stesse leggi che già avevo sperimentato nel corso della vita. Se il nome Guermantes aveva perso il significato e il fascino d'una strada bordata di ninfee e della vetrata di Gilberto il Malvagio, la presenza di Albertine, quelli degli azzurri scoscendimenti del mare, i nomi di Swann, del Lift, della principessa di Guermantes e di tanti altri, tutto ciò che essi avevano voluto dire per me, lasciandomi quel fascino e quel significato, una semplice parola che essi ritenevano ormai abbastanza cresciuta per poter vivere da sola, così come chi deve addestrare un servitore lo metterà al corrente di tutto per poi, dopo qualche settimana, ritirarsi, allo stesso modo l'abitudine avrebbe allontanato da me la potenza dolorosa della colpevolezza di Albertine. Nel frattempo, d'altronde, come nel corso d'un attacco condotto simultaneamente su due lati, in questa azione dell'abitudine due alleati si sarebbero dati reciprocamente man forte. Proprio perché si sarebbe fatta per me più probabile, più abituale, l'idea della colpevolezza di Albertine sarebbe diventata meno dolorosa. Ma, d'altra parte, una volta che tale idea fosse stata meno dolorosa, le obiezioni relative alla certezza della colpevolezza di Albertine, obiezioni ispirate alla mia intelligenza unicamente dal mio desiderio di non soffrire troppo, sarebbero cadute a una. E ciascuna azione facendo precipitare l'altra, sarei passato abbastanza rapidamente dalla certezza dell'innocenza di Albertine a quella della sua colpevolezza. Bisognava che convivessi con l'idea della morte di Albertine, con l'idea delle sue colpe, perché queste idee mi diventassero abituali, ossia perché potessi dimenticarle e alla fine dimenticare la stessa Albertine. Non c'ero ancora arrivato. A volte era la mia memoria, resa più limpida da un'eccitazione intellettuale, mettiamo una lettura, a rinnovare la mia sofferenza. Altre volte, al contrario, la mia sofferenza, sollevata per esempio dall'angoscia d'un tempo burrascoso, portava più in alto, più vicino alla luce, qualche ricordo del nostro amore.